Gabri, ascolta, non è che per caso mandi giù o drame o waghe, che ci serve una traduzione col bambara. Passo. Comunque periglio. Coniglio, coniglio. Coniglio grigio. Qua lucertola, passo. Qua c'è lucertola inquietante, dov'è il coniglio grigio? Ah, è indisposta. Passo. Io lucertola scalpitante, tu? Scalpitante, addirittura. Coniglio grigio, sei inefficiente. Dove sono o waghe o drame? Uno ne devi trovare che sia in grado di tradurre. Flipper ti ha mandato la foto. Gio Maria è molto zappa e difende la bandiera. Questo qua c'è il midi quella là. Ehi, l'hai visto? Me l'ha mandata una che conosco io dalla Thailandia. Ah? Una che conosco io me l'ha mandata dalla Thailandia. Ehi, infatti quella è thailandese, un'amica sua. Ok, te l'ha mandato lì? Ehi! Quanto ti hai mandato tu? Nuda! Ne ho chiacchierato spesso con quella. E anche altre me ne mando. Che vero? Quella della torta te la devo mandata. Prima mi mandi tanti che non so come accugasso. Aspetta, sì che ce l'hai qui, nel tuo coso ce l'ho. Cosa fa, bu? Che c'è una torta a forma di... Ah. Ce l'hai, ce l'ho te la mando, ce l'ho qua. Io! Aspetta la mano. Ce l'ho. Ah, infatti è nel tuo profilo qua. E quella rossa ce me l'ha mandata quella lì. Me ne manda qui, va. Cosa? E me ne manda molte. Sono stata tua moglie, ui ui ui. Già lo sai, me l'hai fatto, mi dico, vai. Non venute? E cosa dici in Thailandia, intanto? La città finita è inutile. E me? Ehi, io. Chi? L'hai fatta da Luca, appunto. Ah, Luca è lì. Ehi, Gio Maria, non vuoi mandarmi via? Gio Maria, che ti chiudi? Non vuoi, no. A chi dice che i rabbini saranno i buchi? A chi è che non li sa controllare, va sì? Beh. All'ultimo le mandate c'è la Marina qua. Oh, cosa ti ha detto? Ehi, da fastidio queste cose, non è che... Beh, a chi cosa si fa? Ascolta, aspetta, fannapoli dopo. Aspetta là. Aspetta a caricare. Ma ieri no, in radio non si è entrato ieri sera. No, ieri sera Bruno, se non me la metto. Forse è tardi. E forse è tardi sono entrato. Thank you. E cosa? Che su che busto tu vai, no? Che tu sei? Gli occhiali messo. Ma non le mettere qualcosa che ti che poi ci scassano le palle. E a chi ci disoccante bue falso, ce l'ho messo nel terrazzo. Adesso a vedere adesso. E ancora non è carico. E lu, Cavaluccio Marino, e lu. A madre pure la giumandata. Marino me ne manda un bimbi. E va, un bel. Proprio peggio pure di chi mi manda a Lucca oppure chi c'ha mi come un bidello. Ho capito, vabbè. Tinta se ne solo il telefono e faccio poi cancello tutto. Oh, lui è un attimo bucato un po' di cosa che mi si è impallato il sciamano. Un bebe, di chi ti si buono, nemi. Whisky. Zalando, Amazzoni, un beh, me ne ho fatti levare da mia figlia. Cazzo, non funzionava più. Ma via, tutta la faccia da tutto pieno. E cosa ho capito? Quelli che entrano e per i cosi pubblicitari. Mi ho lasciato quel CB Black della radio, il carro della radio, Zalando e qualche d'un altro così. Ma un bel ne ha giocati. Ui. C'era la memoria interna mezza imballata. Che mio! E allora, mi ha giocato i beni, i militari, giochi di guerra. Di guerra. C'ho i giochi, no? Militari. E fare le battaglie, le guerre con gli aerei, con le navi, come ti piace. Tipo la PlayStation. Qua puoi giocare così con questo telefono. Ah, ma nel telefono? Nel telefono. Ma puoi giocare anche al televisore, stai raccordi il filo da qui al televisore, capito? Detto, qualcuno che ti dura poco la batteria. Del telefono. No, l'ho caricato ieri sera, adesso è a 30, 29, no. Picchetto, non me la non fanno. Io prima di riposarmi me lo metto a caricare. Lo metto silenzioso. Mi avessi dalla guerra. In te. E se mi di... Zo ai. Ma tu forse già ce l'hai, grazie. Sì, sì. Hai fatto una bella giornata. Sì, oggi a Sparagi ne ho trovato in bestia e andata. A me ne hanno regalato due mazzi. Cosa? Me ne hanno portato a regalo due mazzi, mettimi. Insomma, un bel posto. E ne ho fatto pochi, grazie, ha capito. Per noi, non l'ha giovato a Chiri. No, lì ci sono due mazzi manni, me li hanno regalati, me li hanno portati stamattina. Stanno tutti di base in Maoletta. Ah, sono buoni, fanno bene. Ma oggi potevi andare tranquillamente a farli, oggi ne agattavi. E io sempre buio mai da rito. Se vai, ti conviene andare verso la zona di tutti i figari. Davvero? E allora, cazzo, va bene. Chi su Yuku, carico giornaliero. Raccogli i carichi. Adesso devo scegliere la guerra. Mi pare mi pongo le carri armate. Premio garantito. Adesso metto la fanteria. Illu, Graziano, illu. Qua mi sta dicendo di richiamare una delle navi prima che arrivi a destinazione. A chi vi sommergibili con i siluri. Non sei più inteso, non ti chiama. Vittorio. No. Oh, io è troppo vicino, ricompagni andare a giocare con i vicini delle giaggiuglia, cosa sta di noi, a rincoglionici. Adesso devo andare a pigiurare come se fosse a minui da piccini, a cazzo una piscina. Era divertirsi allora, questo va bene per noi. Vabbè, anch'io sono anziano, dai. Ma lui è troppo ragazzino, cosa 14 anni, fate male di buone, invece andate in giro con i vicini di Lizza e Zoia, ti buona arciana mi dai, no che con lui, ma non si dice, cosa devo fare, babysitter? Ma infatti, troppo giovane. Vai, cazzo, e poi di cosa ci puoi parlare con un ragazzino del genere? Ma... Vabbè, ma è uno che vuole iniziare a imparare e conoscere queste cose, già l'età è buona, perché così con il tempo impara subito, ecco. Se uno gli piace la radio. Oh, chi la radio, se non fa la passione, no? Oh, chi ci virà così mia, chi virà nel regalato, se no lui lascia cadere di radio, cosa? A che tu che credi su vicino va a passione? Come ti piaga appena, che piscina non vedi, pare di tutto. Già lo so. E allora, io a quell'età non le avevo, ma come prendete una vita? Da 16 anni in su, sì, però a quell'età era presa alle femminucce. Ha fatto il baracchino, Sì, va 16 anni, non va 14 anni. Si ha detto 14. Io mi ricordo mi aveva detto 14, 16 anni. E vabbè, però... E vabbè, con chi c'ha radiolina, cosa... ma poi... io non ci credo che ci aveva tutta questa passione di... che gli piace a un bel, ancora il piccino, è un bel pure piccino. È del 21-11-2002. Figurati, cioè, quanti anni sono, fa il conto. Strano che sia su Facebook a quell'età, strano sì. E quanti piccini pure che vi, non venne solo ai due. Lo so. Ma... no, non so cosa dirti. Io ne conosco vicini, uguali. Un telefonino si diventa in Roma stessa, però pure mia nipote, quella che ci avrà la stessa età, forse anche più piccola, non ce l'ha. Però su Facebook non fai. Altro che baracchino lì da Giulia, pensava di vicino, altro che ciocca, ma... Ma solo un attimo, grazie. Dimmi, Giulia? Hai visto che ci ha fatto il panietto? Ma solo un attimo. Luca Gheca e Graziano Zappadori. Tigi il cancello, tigilo bene, se no lo riboccio. E Lu? E Gianni Maria ancora la bandiera sta facendo. Si sa la venda, ma non lo so, siamo rientrati a 5 e un quarto. Tutto la moto zappato. E tu fazzi chi si indivisò là i buriassi, a me mi lascia chi si indivisò là i buribasci, lo terreno, hai compreso? A chiedere uno si incina, fazzi incina a te, Hai capito, la schiavi tu come oggi. E allora, e tu fagli il prezzo più alto, perché ti ha fatto inchinare. Dopo rimango pigiato, non riuscivo a pigiarmi. E invece mi devi abbassare, dimmi che è più basso e più basso la mamma. Mi devi pulire la cicci e farlo fare tu. A te immagini un po' quell'onfio. Nicola Sanna, lui, Nicola si chiama, lui sindaco ha dato le dimissioni e si è posto su Facebook, ha scritto, va a Ligandalini, vi bruciate l'orsi, sta scritto, capito? Cosa? Lo sindaco che ha dato le dimissioni, va scritto su Facebook, Avali Candarelli, allora Avali Candarelli, vi bruciate rossi, a chi prima bruciano, tutti lo bruciavano. Ah, e poi sta venendo piste ciclabili anche, visto che si è dimesso. Ammetti, aspetta un attimo Graziano, due secondi, aspetta. Ehi, aspetta grazie, abbai una mela che donna a Bari, dondu. Abba fuggia che ci ha mangiato ritina della piazza. Flipper, Luca Flipper. E Luca. Un treno, abbai. Io sto verniciando il cancello d'ingresso, eccetera, c'è la cabina, devo verniciare. Abba, eh? Che vedi? Animo e aranzo, a quintali. Ma chi pone i cicosi, Graziano? Non si fa di nei cicosi. No, lo stavo guardando. Poi a cosa andare a furare un tempo? Senti, a chi è per la bandiera? Lì si è fuggita la moto zappa. Si vede il burro, la balassina, di ripilare che fai i libri. Guffetta. Graziano, civetta. Ehi, you. Graziano, guffetta. Che chiama, Graziano, civetta. Graziano Transattore. Luca Flippe, ti è arrivata quella che ci sta facendo la doccia? No, non me l'hai mandata. Sì, che te l'ho mandata. Dove c'è scritto pubblicatura e poi più giù Marianini, eccetera, eccetera. Ma su quello? No, quello è su Messenger, quello. Boh. Ah, boh, se ci guardo. Su Messenger forse. No, su Messenger non è oppure. Aspetta, guardo se me l'ha mandato su WhatsApp. Aspetta, guardo qua. Come mai è strano su WhatsApp non c'è più. Eppure te l'ho mandato. Ma è strano. Grazie, ma oggi sei su Istanbul? Adesso. E gatto domani? No, WhatsApp. Ma quanti ne hai? Cioè, WhatsApp, Facebook, cioè Messenger e Istanbul? No, Istanbul ne ho fatto. Tanto non lo guardavo quasi mai. Non mi interessa assai. Ah, ecco. WhatsApp. Cos'è questa cosa che mi hai mandato? Sì? No, grazie, mi ha mandato quello delle arachidi. Aspetta che guarda, vedere. Mi pare che ti ha mandato. Luca, glielo mandi tu, ce l'hai ancora. Eh? Che cosa? Quella della doccia. Ma che sarà palestrata, si dice? No! Che se te l'ha già mandato lì? Infatti mi adesso l'ho trovato nell'altro bocca, levando, fa schifo. Sì, fa schifo, chi disprezza compra. Manco a regalo. E Luca addirittura se l'ha archiviata, per ogni tanto se la guarda. Pucci. per carità. Con quelli c'è da poco di stare tranquillo. Sono tranquillo. A Luca è piazzino così, non sapete. Mi ha dato il vero, E cosa? Quella balestrata che c'ha Flipper. Quella balestrata? Ehi, non te l'aveva mandata a te. Cos'è questa balestrata? Ehi, ma come me l'ha mandata tu su WhatsApp? Io? Ehi, avacchi, per Marina, vizzino, e fendi, l'ha smemorato me, grazie. Ah, ragazzi. Non so cosa ti ha mandato. Guarda che molte volte me li mando, le rimando direttamente senza guardarli. Ma se me l'hai descritta pure, te l'hai vista. Non so se te l'aveva mandata Graziano. Ma tu sei tu macco, mi sa. Ah, ma quel perruccio so me. Oh, yeah. Ah, chissà, good morning, chissà. E chissà... Oh, gli addominali già per abbetti. Sì, sì. Ma la dittona si risente. E che te l'ho mandato? Luca è quella che del pullman te l'ho mandata. Eia. Che schifo. E chi tu ci rimaniava? Zia. Praticamente erano i visti che avevano un cioccolato, gli ciucciavano i giuro. E chi ci mangiavano gli arachidi. Bautista, di una zia, si succhiava nel cioccolato e la lacrima che rimaneva che era nel cintigate, di una zia Bautista e che tu si rimaneva. Cazzo di boccaccione però. E che su Bulma mi hai male che me la brucia Maria, vero lui? Luca. E non si goditi. Che cascè di sì. Luca, a te la mando Giomari. Sai cosa? Chi su di Rubulma? No, no, no, se cosa boccaccio non mi interessa. No, che ti fa se ridi cosa boccaccio? È pronta, se non è boccaccio va bene. No, aspetta, eccola. Avate la mando. Allora, dov'è? Mi mi te l'ho mandato, a bai da Dio, e leggi Barò. Davvero? Ma devi essere veloce a leggere, ma se no non la capisci poi fino alla fine. E beh, Flippero. Hai zitto un attimino, dai. Ehi, you! Ilu! Luca, ma tu hai visto me alla fine? Chi ci fotografica a vita? Chi ci Bulma? No! E ora te la vai da la fine, a vai da caffè, chi ci mezzo? Poi beh, mi dica che assomiglianza c'ha, a chi ci assomiglia? Ho capito. Hai visto? Ehi, tu! Preciso, Ma di chi sarà che di brutto l'hai mangiato? No, no, no, aggiudetti! Forza succiato! Ah, brutto di cioccolato, ho capito. Ora si la mangia di Luca. Che tu bulbo lo sa poi sulla lettera, ma mangiassi! Venga! Chi? L'autista! Ehi! Ah! E beh, lui, io non ti ho fatto già venuta, no? No, ma lo sai che gli mangi, ti mangi a metà, lui. Quella gente, che tu gli hai fatto quel prezzo, sta cercando qualcuno che glielo faccia per 60, 50, capito? Davvero grazie, cazzo! Sì, buono buono ci vuole un'oretta, anche di più, perché devi smontarne quelle staffe là, o le tagli direttamente. Poi salire nell'angolo, mettere gli altri, quelle ad angolo, e fare 4 autobuchi, poi passare il cavo, insomma, tutto questo lavoro c'è un'oretta, anche di più. Di più sì. Aspetta. E poi quei lavori non li puoi quantificare in ora, se no li devi domandare 0 euro. Cioè, se quantifichi in tempo, li devi chiedere 20 euro. Li chiedi. Ma cioè, non si quantificano così quei lavori. Ma infatti. Attualmente, attenti, da un computer, va a aprirlo, pure la ventola, mettere la pasta e tutto quanto, che poi un'ora di travaglia, cosa li domandi? 0 euro. Cioè, non si ragiona così, soltanto perché ci hai messo un'ora. Per 0 euro non manco un rinforzo, ma ne manco un po' a 20. Poi se devo fare un amico, il problema non me ne so. Come ho sempre fatto. Ma sai cos'è? Che alla fine, cioè, io sto lavorando, non è che mi posso fare un piacere, capito? Ma sì, cioè, allora già mio cugino me l'ha detto in partenza, che aveva chiesto a un altro, stava aspettando un preventivo, ma non è un preventivo da migliaia di euro, so euro e boh, sono pochi euro alla fine, che preventivo devi fare su? Magari glielo fa anche per 50, non ribari vero, e per 50 euro non va a Sinchivi. Cioè, per 50 euro nel senso, come in due si dividono i soldi. Il tizio addirittura l'ha fatto prima di noi e ancora non l'ha dato la risposta. Cioè, la trava di così, Andri, vedi, boh, fai un preventivo, cosa devi... Ancora esistendi lo preventivo di chi tu è? Dai, sta pure male, cosa è? Devo una villa, devi fare. Allora, se mi chiama, fammi una cosa, se mi chiama... E gli do il tuo numero, a fare 100 euro se lo vuole fare, se no si arrangia. Sì, per fare, cioè, ma vedrai che lo trova l'infame che glielo fa a 50, capito? Ehi, se ti devi appiccare, non ti credi che non agatta niente, che non viene più gente manca come te prima. Ma meglio, sei anche grato, non è che mi interessi. È che un preventivo è una cosa da 80 euro, cioè non è cosa da 3, 4, 500 euro, capisco, una cosa da 3, 4, 500 euro si fa fare preventivi da più persone. Prima ha detto che andava bene, adesso ha detto che aspetta l'altro per fargli un preventivo, ma andava, va a cagare, va. Impegnato, se ti fai vedere fa 80 euro allora, ma infatti ti ha calpestato Graziano. Vabbè, lui se mi chiama ti passo il numero e gli spari 100 euro e se no si arrangia. Io ormai il prezzo gli avevo già fatto, che posso 18 euro, capito? Andava bene, quel prezzo lì va più che bene. Però se la vuole mettere in alto così, no, assolutamente. Ma sai cos'è il problema, Lu? È che non abbiamo lavori, insomma, non lavoriamo tutti i giorni, capito? Se no, l'obbligo l'abbiamo aumentato. 100 euro lo puoi fare, no? Ciao, invece grazie. Ma se tiene quell'altezza lì, ok, si può fare anche per quel prezzo che l'abbiamo fatto. Ma se è più in alto e più vuole un ponteggio, assolutamente. Ah, ti deve buttare Bruno, il ponteggio ha preso, allora devi aumentare, caro bello. Allora, quanto costa un trabattello alto? Un trabattello che arrivi a quell'altezza, manco di 300 euro non lo paghi. Perché ho visto, apri come ci sono. I trabattelli costano perché sono comodi, capito? Però per fare un lavoro del genere, chi ci fa con un trabattello o con un ponteggio, no, non è pigliato su 50 euro. Beh certo, comunque ci vuole. Non si fa tipo imbiancare così, è bello, lo sposto, come ci sta e fa la cara. Lo so, comodo sì. Quando li mettono in offerta è comodo, è conveniente prenderli, che a volte li mettono a 49,90, 50 euro, dai, 50 euro li mettono ogni tanto in offerta. Per fare gli appartamenti vanno di lusso, vanno benissimo, quindi stanno le ruote, gli sposti, capito? lascio il secchio su, non fai altro, cioè, più sbrigati. Quanti metri è? 2 metri? 1,80, 1,70 mi pare. 1,60 mi sembra che sia l'ultimo gradino. Poi c'ha le due, i due parapetti, diciamo, dai. E arriva a 1,80 forse. Già va bene, dai. Fai prima sì. Poi la bidone lo lasci sopra, la pittura. Stai, sali, scendi, ti sposti, fai l'angolino, sì, sì, è ultimo, quella ruota e poi la voglia, un gioco. Poi ti fa un pezzo di su, invece di farlo altro lo fai con la pennellessa, direttamente, via. Ma anche se lo fai col rullo va bene lo stesso. Ma gli angoli sono quelli primi da fare, poi a rullo, il resto è a rullo. Va bene, dai, 10 minuti mi assento, ciao, a dopo. Beh, attirai 3, Luca, così patinate, va. Io mi avevo comprato il trabattello, oh, a bricco, ma io per tingere mi piazzo quello, se non so cazzo e fara. Ah, ce l'hai, grazie. Sì, sì, lo do però qua in casa, quando devo fare il salone, qua. Quando ho messo tutte le cornici, no, i quei decuri. Li ho messi con quella, se no mi viene a male quella cara, come ti fa zia. Ho capito. E adesso appena altro che sono in offerta, se mi capita che c'è qualche soldino me lo compro anch'io. È un bel comodo, io lo utilizzo quando devo imbiancare in camera da letto, il salone, con chi mi bozzo la metà della camera senza scendermene in terra. Poi mi dico dalla sabbassa e posso lasciare, mi dai della vomita. E poi faccio tutto il pezzo in alto, tutto in giro, mi sposto, mi faccio a destra e a sinistra e non mi sto occupare di alza. E beh, comodo per quello. Comodo sì, è anche più veloce poi. Sono le 6:30 e ancora luce. Stanno allungando le giornate, è meglio così. Sì, ma dice che lo vogliono lasciare così l'orario, normale, che sta cambiando lui. Ah, che già lo cambia. No. Ma già, a me la verità sì che mi piace bene il figlio, che è l'inverno. Arrizzico l'inverno, l'inverno fai già mucci. Più consumi ci sono l'inverno. Tipo a pelle, tutto, l'acqua dello scaldabagno. Corrente, tutto consuma, c'è di più, non consumi quasi niente. Tutto, ma poi anche, a parte quando lavoravo, non mi piaceva perché uscivo dal lavoro ed era lì a buccio. Entravo quando era buccio e usciva quando era buccio. E quella maniera là, quando c'è luce, quando uscivo dal lavoro andavo a farmi altri lavori. Sino alle 9:30, alle 10 di notte mi facevo altri lavori. Di questa maniera non fai nulla. Beh, in effetti è così. È giusto. Vabbè, Stella, ciao piccolina, faccenda, andate che faccio. Stella è a panza a cosa? A zampa in aria, strumita. No, è che ha mal di panza. No, si vuole sempre così, è bisogna la stufa. Ah, sì, io ho sai di una che mi fa di la buriestra, il periodo estivo e altro che giurata Ida. E adesso iniziano, ma con le giornate belle ti chiamano. No, quelli che mi hanno chiamato poi che non ne ho fatto più, li ho dati tutti a un amico mio, gli mandavo a quello e poi quello si va a dare il numero di telefono e già va lui a fare riparazione di avvolgibili a piazza Bortoncini. Oramai l'avevo dato già a quello lì e ci va quello. E no, un bel travaglio. Mi ha detto. Mica io, lo sai il lavoro che c'avevo. Già te lo faccio dire da Paoletta qualche giorno. Lì, quando ci vado a lavorare alle 5 in estate. E travagliare, pari al centralino e i nocchi. Sempre già a me e Paoletta mi prendeva il numero di telefono quando venivo telefonavo. avevo questa pulita. Ah, siamo pure a casa. Gli avevo dato il numero di casa e il numero del cellulare, dei primi cellulari, dei ricorsi. Il Motorola ci avevo. Ci avevo tenuto i cellulari, pulita. Ne avevo un bello lavoro, che prima di tutto, il più quei lavori erano lavori di clienti del mio ex principale, perché loro non mi chiedevano se chiamavate quanto mi prendevi, io, certo di meno del mio datore di lavoro li prendi. Allora mi chiedevano il numero, capito? E tutte le altre volte li facevano il giro, dove aveva qualche travaglio, chiamavano a me, capito? In bianchina, e poi da quello lo diceva la cognata, alla sorella, al fratello, mi dice Graziano che sa fare tutto, così così, e mi chiamavano un cognato, un fratello, o parenti, là. E beh, il giro poi si è allargato da solo, così capitarsi, un po' di volte non la facevo perché ne avevo troppi. Lidia, se mi viene bene, se no, se c'è urgenza, li posso mandare, gli mandavo con la Micuni. No, ma se tu sei impegnato. Se aveva un travaglio in mano, noi che mollavo qui, si mandava a Guido. Già facevo anche così, magari rinviavo da Guido. Gli levavo una scusa e andavo a farmi quello là, che era più veloce, incasciavi subito. Mi infustia. Vabbè, se capita. Io ne avevo un bel lavori extra miei, un bel, c'avevo l'agenda qua in casa, piena. Quando arriviamo ogni adita a travagliare, Paoletta mi dice, mia telefonando, il numero, chi. E allora io li chiamavo e chiedevo cosa voglia. Ah, lavoravo anche di domenica. Sabato, domenica, di Natale, di Bacca. Qualsiasi giornata, anche tardi, la sera tardi, gli dicevo, io glielo faccio, però sono disponibile da quest'ora a quest'ora, per esempio, dalle 9:30 alle 10 posso venire e farglielo, se devo sostituire delle secche di avvolgibili, se erano lavoretti veloci, a cusafrici di Ianni, a piazzafrici di Ianni, a cusabaccone, a cusarmati, sportelli di armati. Quello che c'era da fare, a ciambare i dubbi della cucina di Rugazzo, delle cucine componibili, no? Mi devo dare un piatto cottura, cambiare e mollare il tubo vecchio, attaccare il nuovo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua. Anche i tubi delle bombole cambiassi. E allora, mi devi bucare un po', mollare un piatto cottura. Con le spalle lo mollavo così, con le faccette nuove e poi ripiazzavo il forno, 4 viti, ma... E anche a Marina, però giù a Badui, grosso. Marina c'è, ho staccato solo il forno e basta, ho tirato indietro, mi sono passato il tubo, l'ho agganciato, l'ho cotto da sotto, è rimasto la fascetta e qui ho fatto passare dove c'è il portabombo. E a piazzare valvole di ritorno fiamma nel tubo, capito? Un sacco di lavoretti, tutti i lavoretti che facevo dove lavoravo io, no? A piazzare avvolgibile, a piazzare porte, a fare pavimenti, frammicamuro, chi so chi è agattato io basiano, hai compito? Di tutto. Se t'arrangiati, a fare impianti nuovi, a fare il mille tracce, piazzare le scatolette, murare, intunicare virus, passargli i fili, allacciare i lampadari, interrompere tutto. Io qua non ho mai chiamato a nessuno a farmi le cose, sempre io me le ho fatte. E se no impari, quando io ho cominciato, non sapevo nulla, guidavo i bumi, facevo l'autista e boom. Poi mano a mano che ho fatto il manovale con quello, il manovale con quell'altro, il bianchino con quello là, eccetera eccetera, ho lavorato, capi? Dopo lavoravi veniva l'elettricista e guardavo l'elettricista, chiedevo, mi formavo e mi segnavo nell'agenda tutte le cose difficili. Eppure io mi arrangio un po' a tutto, dai, non è che... Anche io so cambiare le stecche della pulgibile, la corda, tutto. Ce lo so fare. Ma per dire, ci sono vari e vari tipi di avvolgitori di avvolgibile, c'è quella a cassonetto, c'è quella a muro, tutte queste cose io le sapevo tutte qua. Per esempio, a questa che c'ha a fare questo qui, che ha chiuso, bisogna andare 40 bassoni, non verrei deciso in giù. Un giorno l'ha chiesto a mia moglie, sono andato e gliel'ho aggiustata io, perché c'aveva l'avvolgitore all'interno del cassonetto. Perché qua non sono all'interno del cassone? No, qua c'è la scatola murata, di lì sono come qua. Là c'è la scatola, non ce n'era, c'era il guidacinghe solo attaccato alla finestra e l'avvolgitore rimane all'interno del cassonetto dove c'è la pulizia. Ah, sì, sì. E chi su un biglietto non li sa fa, ma capiattasse la cinghia. E ho rubato i siccumiuti. Quello non l'ho mai fatto, ma se c'è qualcuno che vuole entrare. Un bel di gente da quella ci ha provato, ma non ci sono riusciti. Pure miei cugnati, mi gliel'ho spiegato a miei cugnati. Pure un altro ragazzo che era venuto a chiedermelo come si faceva, gliel'ho spiegato, è andato in un bel di giù. La bella di ha messo che andato io che l'ho fatto in 10 minuti. Lo so, Grazia, è che... Se uno sta lì, va a lavoro e non guarda, io faccio un mulattore, io alla fine aiutavo e basta, non guardavo, sono imparato tante cose, ma io mi arrangio, non è che so più tappatracci, non è che so più mulattore, magari, mi sono sempre fregato, dai, non... Alla fine la prendevo come un gioco, a me basta che mi pagava a fine settimana. Guarda che l'architetto che è venuto in campagna per fare le cose a mia cognata, gli ha chiesto a mia cognata chi gliel'ha fatta la casa. E c'ero io anche, no? E gli ho detto, io gli ho fatto, con che impresa lavora lì? E io con nessuno, io posso l'autista, lo faccio per ubi questo lavoro. Caspita, ma con i dipendenti che va giù a travagliare in uscì, che aveva detto, figurati. Ah, tu l'hai costruita da zero? E allora, da zero, in campagna si può sopraelevare un altro piano con la mansarda, me la devo fare io, poi non me l'ho fatto. Ho la casa che ho fatto a mia cognata. E allora ho fatto le travi sotto, prima gli scavi, le travi da 60, gettate con le gabbie, ho fatto le gabbie, quelle me le ho imparate con un ferraiolo. E gli ho fatto tutte le gabbie, vedi, tutte quelle cose io me le segnavo in un'agenda, a che distanza vogliono le staffe una dall'altra, che tipo di ferro ci vuole, da 6, da 8, da 12, da 10, capi, per fare le gabbie. Tutte cose che io mi segnavo, quelle, per ricordarmi, poi col tempo ci arrivavia. Hai visto lui, Graziano, pure le case sta costruendo, ci ha costruito, bubu. E tu mi sei volato su una casa. E mica ne ho fatto anche a Bancali, a Ottafa, a Canica. E ne ha giù fatto un gas. Ma, sempre sabato e domenica la sera. Ma il carcere tu l'hai costruito? No, io ho lavorato lì a Lipunti. Che adesso non so che uffici ci sono lì, dove dovevano fare il manicomio. Lì io ci ho lavorato da solo a fare tracce, mazzetta e scalpello, e scavi per interrare serbatoie, a picche e a para, da ragazzino, con Marco Genuari e Marco Saurro, testimone di Geova. Addirittura. Ehi, prima di partire in militare lavoravo con Marco Genuario e Marco Jesuino, uno di un tipo di Corsica era, corsicano, muratore. Ho imparato anche da tutte loro, da quei due, anche da Marco Graziano, quello di Bancali. Io ho imparato anche da quelli. Poi là come si chiamava, quello di dove c'è a Ottafa, dove c'è il ristorante, avanti non mi ha messo il ristorante, quello, Marini, Ehi. Ah, io. Ristorante Marini oppure ristorante Danilo? No, ecco, Danilo, dove Danilo, giri proprio dove Danilo, vai in quel grottolo lì in fondo, nella curva, giri a sinistra, scendi giù, sulla destra abita Mastro Mario, con Mastro Mario che abita lì, che è dell'Argentina, però abita lì, con Mastro, quello era di Porto Torres, via Balaia abitava, adesso non mi ricordo il nome di cui. Tutti i maestri che lavoravano a conto suo, io ci ho lavorato con lui. Io andavo in pullman bancari, in pullman, macchina non avevo. Lumanzano ha travagliato, ha già fatto pure la villa di Baraccone a bancari. Già ne è fatto, dai. Che altri ce ne ho fatto? Anche a Palmadra, quel ristorante bianco con l'archi che c'è. Quello l'ho tutto imbianchinato io a Cassina, 30 e pura. Con la bomba, solo mi. Ci sono rimasto tre settimane, quasi un mese. E mangiavo nel ristorante anche di Brice. Hai capito, E lì lo stesso andavo in fuma, a Rasura. Non è colpito, lo mandavo, zicchiata e non mi pigliavo. La camminata a piedi a Santa Maria mi pigliavo lo bulma. E andassi a Rasura? Ehi, quando andavo con coloro che mi dava il lavoro e mi portavo tutti i ferri, no? E li lasciavo là. E poi io andavo e tornavo. La sera a pigliare il bulma. Alle 5 ero già la fermata del fumo. Non ho capito. Lascia vedere che la so. Vediamo. Ah, 7:10. Allora, entrambi, grazie. Mi assento una ventina di minuti, dai. Ehi, Mastro Pietro, unicap imbriagone. Però come muratore era bravissimo. Se era stato imbriagone, però era un piombo, era. E ti controllava che ci mi spiava a dire si va a dire a cosa avermi. Oh, mi stavo violentando, grazie a boh. Ehi, va a lavarti, va. Sto qua. Ehi, fa la violenza sugli uomini. Lui, ok? Fatti la cintura di classità. Sentito, uffo! Guardati quel video dei militari che ti ho mandato! Ma c'è per un telefono in marge, bello bene! Che mai? Ma ringraziare se poco dei poli in mano, chi se lo drombi babà dal del polino? Arando stai, Giomari? Il tannau! Arando stai, Giomari? Toccando me la so! Ah, Graziano dalla! Vai su me la guascia! A livello di combattimento! Tutti si accade se scido! Che vuoi? Bello, sommergibile, nave, ma senti come sta uscendo, Ia. Per carità, devo essere appena morito, la sì. Me, forza aerea, Luca, non te l'hai guardato. Oh, a te, papà, intanto, no, e dire che siamo mette a te. Mica c'è altra cosa da fare, Luca, me. Quello è bello perché è formativo, non hai capito. Vedi, Luca, c'è altra cosa più importante da fare. E allora sei al ciutente, si è fatto la doccia. No, stavo mandando un messaggio, ho visto che questi qua cambiano i vetrini del telefono mio. E così risparmio un po' di soldi. 70 euro vogliono per cambiarmi il vetro. E cosa sono cinesi? No, si chiama Tecno Lab Salerno, laboratorio di assistenza tecnica, sostituzioni e rigenerazioni solo vetro Galaxy S8 con tecnologia criogenica, offerta valida fino al 28 luglio 2019. 70 euro, 69,90 per l'S8 Plus, 124 euro, solo per cambiare il vetro, è allucinante. Un pozzo di dinatti, bene, ma c'è un vetrino, poi tre cade in terra di nuovo e si punta a capo. Troppo garizzo, e tu non te lo sai cambiare. No, grazie, già adesso qua troppo, c'è malissimo. Posso cambiarmi tutto il blocco, sì, quello sì, che ci riesco, ma mi costa 200 euro. E il prezzo non facevo, proprio, piano piano. No, fai danno e boh, spacchi il display, sei fregato, no, è curvo, grazie, non fa, ci vuole l'apparecchiatura giusta. No, gli apparecchi, capito, lo metto sopra il vostro apparecchio, la ventosa manda aria calda, lo porta a temperatura giusta e poi con una specie di lenza, una corda diciamo, me la passano tra il display, tra il touch e il vetrino e glielo leva, poi bisogna pulirlo con un prodotto, non è facile, poi incollarlo, non ce la fai, ci vogliono un bel di soldi per comprare quell'attrezzatura. E allora se funziona, te lo dai che no, vabbè, 70 euro me li posso anche giocare. Vabbè, secondo me è troppo. Questo è un telefono da 100 euro, no? 64 giga, 4 giga di RAM. Mi sono trovato benissimo. Mi trovo bene tuttora. Devo cambiare la batteria e il vetrino, boh. Se riesco con 70, con 100 euro lo sistema, ma a me non è un telefono buono. Vabbè, se ne vale la pena, se conviene allora magari te lo ripari più quando c'è qualche lavoro che più. Giammari! Luca! E te, dottore? Dammi tu sì. Sì, c'è Graziano qua. Sì, vi stavo ascoltando 5 minuti. Non ti converrebbe aggiungere 45 euro e comprarti un nuovo. Agite, non ti conveniva aggiungere 45 euro e comprarti un nuovo. Bene con questo telefono, capito. Se non c'era il vetro rotto era perfetto. E l'unica cosa da cambiare è la batteria. Mi sono comprato anche il copribatteria, c'è il tappo di dietro che mica lo puoi staccare, lo devi scaldare ed è attaccato a biadesivo. Ce l'ho nuovo il tappo, perché questo qua l'ho un po', diciamo, come l'ho tirato, si è un po' rovinato. La batteria e il vetrino, cioè il display, da. Poi il telefono è a posto. Aspetta un attimo Luca, che c'è Bacchisio sulla 27. Sì, yeah. Luca, cosa mi hai mandato? No, non me lo fa vedere. Come non te lo fa vedere? Dice accedi o iscriviti per visualizzare. Beh, premo sotto dove c'è la scritta. Contenuto non trovato, mi esce. Torna alla home bug. Aspetta, guarda, ho mandato su Messenger, guarda se lo apre. No. No, mi è arrivato. Aspetta qua. Ma chi c'è una palla? Io ne abbiamo usato un capo. Mamma mia, c'è un topo grasso, mamma mia. Che cosa brutta. Unia schifo. È intervenuto in Germania. E quelli di quel programma Alfa ci rimagnani, il topo murciato. Il topo muschiato, non murciato, muschiato. Ehi, topo muschiato, la rimane ne ha pigliato 2 o 3 e nel ghiaccio, no, oggi l'ho visto, nel lago ghiacciato da un fiume. 3 ne ha preso, ha fatto i buchi, ha messo la lenza con l'esca, la di prima, le due andate in appiccicato, i ricapi che ha posto, ne 3 ne ha preso, un gazzarrone. Schifo, grazie, mamma mia. quelle sifonia fanno ancora più schifo, mamma mia. Mm. Tu non sai tutte le malattie. Mamma, c'ho i brividi, c'ho. E la rimanazione me la fai tenere con la famiglia 10 mesi. La sera mattina si girano i gotti, a buddito, e poi si rimaniene 30 la denta. Unia schifo, e tu li devi vedere che è buono, un piatto prebilato. Cazzo, mi era lì, fa cazzalluccia a me, che schifo. Mia. Via. Qui c'è la fame. Pare si mangiano anche gli scarafaggi croccanti. Una ghidata. Magnati, rubani. E allora? Vabbè, grazie a fammi per la voluta, Io di questo mi ha avuto fame, l'avevo avuto da mangiare. Ma morire e morire, hai mangiato due soli, con brutto. Lo saranno. E non mi aveva mangiato un piede. Mio barocco. Ma è morto di sanguato. Vine cosa di mangiare, non bisogno di mangiare tre sarroni. Ucci, a pigliarne la peste. Lo sai che i tupi contagiano la peste? E muori di peste. Ucci, un po' così là come te di biati. Sempre sarroni, Sì, ma se tu guardi il topo di campagna e quello di fogna, c'è un abisso grande, grande, grande. Sempre i sarroni, non vedranno campagna, o terra, o aria, o mari. Sempre giù di qua. Guarda che l'abisso è grande, più grande dell'abisso. E allora a Luca Flipper gli fa arrosto sulla graviglia col codino cinese. Ma Luca mangia antenne, poi... Ah, se ne ha ruzzica cose, sto fa pellet, poi pannelli fotovoltaici. E allora, stasera ho visto che quel tipo là, invece quello che è solo, che non c'ha neanche i cani, ha preso un alce enorme. Caspita, sarà bello. Spellato, selezionato e se ce l'ha buttato alla denda. Purtroppo lì si deve arrangiare. Gaisugunto, se uno vuole campare, tipo quelli che fanno nudi e crudi, che si rimangono in bucaria, mamma mia. Io sarei a morire in chibi. Io un giorno sarei durato lì, non di più. Ma rimango 4 ore ma sarei durato lì. Ma non hai visto che se li mangiano tutti gli zinzoli, tutti gli insetti? Ma ce la fai? Ma a fare quel programma dell'isola se ne è andato io? Tutti pieni di mosse di zinzola, ma non l'hai visto? Boccerini! Pure ogni mosso, non l'hai visto? Sono tutti mozzicati, insomma. Con un bel tazzone di caldo caldo, con i biscotti, il pane, quello che è. No, magna schifo, lasciano dal tempo che trovo. Preferisco il male è povero, ma... vabbè, ma non sono pagati perché? Boh, ma non è che diventano vinti. A chi anda? Il migliore si bicarma l'opu manno, diciamo, va? Però... non è pa' me, è a lui. Con tutti i sensetti, quel programma a nudi, come mamma l'ha fatti, puccio ne ha schifo, senza nuda, con un coltellino, e cosa fai? No. Ma ne manco molto. Organizzato bene già ci sarei andato, ma tutto è organizzato bene, allora sì. Grazie. Però beh. Vabbè, è talmente abituato. Però beh. È mia cosa così. Sono posto male. Così. Guarda che c'era un periodo che è capitato, adesso faccio un esempio, ma tanti anni fa, che mamma si dimenticava di comprare il latte la mattina, ma io ci devo uscire presto, tipo le 7, così. Non facevo colazione, stavo tutto il giorno male, grazie, mal di testa. guai se mi manca, guai. Non so per quanto vado. Vabbè, ma purtroppo devo andare in cantiere, avevo appuntamento a quell'ora e non posso, non c'avevo manco il tempo di entrare, di entrare in bagno. Io quando lavoravo... Stavo male tutto il giorno, lavoravo malissimo, grazie. E io ho abituato adesso, io ho la colazione, se vedi, quando sono andato a fare il corso all'ospedale, la visita che sono andato a digiuno. Se sei abituato, logicamente poi ti senti male se non fai colazione. Però sono caduto, grazie, ha fatto passo troppo lungo. L'ho visto. Se sei abituato, logico, se uno non fa colazione poi ti senti male. È così, No, io il masano ne faccio il tè perché mi devo fare l'insulina, abbigliarmi i bacilli, se no a me mi basta anche un caffè così. No, non è che mi ne venga di mangiarmi. Io sto bene anche con caffè, ma però mi devo fare l'insulina, abbigliarmi le pastiglie e allora mi devo fare forza il tutto. Vabbè, io sono abituato da piccolino e vedi, quello normale non lo posso bere perché mi fa male, però quello senza lattosio sì, e la mattina un bel bicchierozzo, insomma, ti tira su, se non lo faccio sto male. È come una droga per me, quasi mi manca. No, a me non me ne fa sì. Cioè quando lo butti a mangiare da bizzinotto, la mattina la colazione già la facevo con il latte, e in casa di mia madre già c'era sempre il latte, e a buia. E però noi che non andiamo sai, ma fino a finire non me la fottia tutta. E io un caffè però la mattina gli ha meruito. Io col caffè sto bene, quando andavo a lavorare, che non pigliavo tutti i mesi, facevo solo il caffè, poi fino alla una, poi mangiavo alla una. Vabbè, allora mi dico. Avanti, faccio colazione, tipo le 7, no? Io fino all'una ho toccato. Grazie, amo. Quando arriva qua, magari a casa, mangio. Attento, Graziano! Dirà giusto uno stuzzichino. Se no poi tipo se mi mangio un panino alle 11, non pranzo male, ecco. Non ne mangio. Faccio direttamente il pranzo. Poi la sera la merenda già la faccio. Beh, per forza, almeno la merenda la sera la devo fare. Se la canta all'urto muore di fammi. No, io no. Verso le 4 e mezzo così. Mi prendo, mi posso un caffè e niente, fino all'ora di cena non tocco niente. Cacca impriato, sì, una, due caramelle, un cioccolato, cosette così di impriati, là. Però a mangiare, e poi, secondo come te, la notte mi posso solo, mi faccio un tè, non è che non ho appetito proprio, non me ne viene a me fame. Purtroppo devo mangiare che mi devo fare l'insulina, capo? Vabbè, comunque cerchiamo di darci una regolata, dai, mangiando, se no diventiamo autobotti, Tipo vedi, la birra fa ingrassare, ma la birra fa uscire un po' di pancia, infatti ogni tanto me la bevo qualche bicchiere, qualche lattina. Ogni tanto però. La birra si fa ingrassare, sì. E poi c'è molta gente che ti gonfia. Vabbè dai, che avanza a raggiungere l'ottimo cubicino. Ciao Lu, a domani se coincide. Saluta Marina, anche da parte di Paoletta. Ciao, ce la sentiamo. Ciao a chi è in ascolto. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Marina ricambia. Ciao a tutti. Paoletta. Ciao Paoletta. Ciao anche a Paoletta, buona cena, ciao. Ciao Marì. Ciao Paoletta, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti. Belle e brutte. E beh, Marino. E beh, Luca, ci abbracciamo a carica, saltone anche la signora. E beh, Luca, che mi dici? Ciao, a domani. A fondo scala, sì, Marino, dove sei? Ah, grazie, domani, ciao. Dove sono? A casa sono. Come mi ascolti? A fondo scala, sì. E meglio così, dai. No, ho pensato un'antennina nuova, ho pensato e sto provando. Domani prendo questa un'altra. Perché non sceso qua da 27, mi si è spaccata, ma che già ce l'ho nuova. E settimana piazzo tutto qua. Meglio così, ma signor Bacchisio non è entrato, no? Sai che sono su 23. E io non posso entrare, c'ho negativo 27, negativo. Con l'affare andava bene, sì. Con l'affare va benissimo. Prima no, perché non ho messo il cavo VGA, non mi dava l'input. Ne ho messo un altro, visto che è partito, poi ho rimesso di nuovo quello là, il primo, e funziona anche con il primo. Sì, a posto, da. Quello praticamente adesso me lo porto qua. E me lo uso per fare i computer fissi, dai. Meglio così, dai, già va bene, dai. Oh, a quello lì me l'ha dato, io l'ho preso a quello che ti ho detto l'altra volta, no? Che voleva l'apparecchio gratis, diciamo, aggiustato gratis. Non mi ha detto più nulla, e nulla gli ho chiesto. Ne aveva tre, gli ho detto, dammi questo qua e mi serve per me, personale, ciccia. E i due si sono tenuti, a manco si rimagna di si dove va. Ma quella TV che mi ha dato? E il mio collega, no, l'ha trovato nella zona dove lavora lui, capito? Ne aveva tre, ne aveva in macchina, ne aveva otto. E una io l'ho preso, me l'ho fatto dare, e una, dai, a me che mi serve per altre cose, e basta. E non mi ha detto più nulla se le doveva riparare o no, capito? E nulla l'ho chiesto io. Ah, ho capito. Mari, cosa... Allora, quello là, lo stavo cercando di ripararlo, però sicuramente c'era danneggiato, sai, dove mancava lo spinotto dell'antenna lì. Gliel'avevo risaldato, però visto che dava... era morto. Ne ho staccato i pezzi buoni e ci ho buttato tutto. Ho capito, sì, vabbè. Interessante che funzioni, Luca, non preoccuparti. Ok, Luca, io ti lascio, mi sta chiamando mio nipote, dai, saluto anche la tua signorina. Già ci sentiamo con calma, dai. Ciao Luca, ciao, saluto gli ascoltoni e QRT per noi, dai. Sì, ciao Mari, ciao, buonasera, ciao, grazie, da parte sua anche, ciao.